Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Stanno per partire i primi controlli legati al nuovo redditometro. Il sistema dovrebbe avere individuato, incrociando i dati sul reddito e quelli relativi al tenore di vita, quei contribuenti che nell'anno d'imposta 2009 si sono comportati in maniera non totalmente trasparente, in modo un po' sospetto per il fisco, dando atto ad uno scostamento superiore al 20% fra le due voci e che potrebbero essere per questo considerati colpevoli di evasione fiscale. La prima fase dei controlli prevede l'invio di un questionario che invita a fornire giustificazioni sulle incongruenze riscontrate. Sappiamo che è un argomento che mette molto in agitazione i nostri ascoltatori, allora noi oggi per questo, per agitarli ulteriormente, naturalmente sto scherzando, torniamo a parlarne a Salva Danaio invece proprio per tranquillizzarvi nel caso dovesse succedere appunto che qualcuno vi venga a bussare alla porta e se nel caso appunto questa lettera di accertamento vi arrivi, c'è ancora un passaggio appunto che permette di giustificare le proprie spese. Spieghiamo agli ascoltatori come comportarsi in questi casi, restando in tema di rapporti con il fisco, vi aggiorneremo anche su un'altra vicenda, perché una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che tutte le cartelle esattoriali prive di motivazione sono da considerarsi nulle. Non basterà più, a quanto pare, fare il riferimento ad un omesso o carente pagamento e cercheremo anche su questo di scoprire qualcosa in più. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Voglio subito anticipare l'intervento di Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che già ci ha aiutato ieri a capire un po' di più sulle ultime novità a Focus Economia. Vorrei che ci spiegassi magari anche lo speciale che c'è sul Sole 24 Ore questa mattina, perché appunto ci dà un po' qualche delucidazione sull'imminente invio di queste missive. Ciao Deborah, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Sono qui per tranquillizzare però gli ascoltatori, almeno quelli che sono comportati bene, perché appunto stanno per arrivare le lettere, i questionari del fisco. Abbiamo detto, sono state create queste liste selettive con 35.000, forse 40.000 nomi. Non ci anticipare ancora proprio il tema, diciamo, della trasmissione. Vorrei che ci anticipassi il contenuto della speciale di stamattina, appunto tentando di spiegare, di dare delle istruzioni, dei consigli ai nostri lettori e spiegare come si devono comportare nel momento in cui dovessero ricevere un questionario. Perché dalle prime risposte che si daranno, è come quando si viene interrogati da un pubblico ministero oppure a scuola, da un pubblico ministero, ci si potrebbe poi, come dire, incanalare verso una soluzione rapida e un'archiviazione del caso e invece poi trovarsi con un vero e proprio accertamento con adesione. Quindi proviamo a dare alcuni consigli, lo abbiamo fatto già ieri, lo facciamo oggi, lo faremo sicuramente ancora di più nei prossimi giorni, perché ci sono tanti aspetti da valutare. Il consiglio massimo, quello supremo per stare tranquilli, è avere la documentazione delle operazioni principali che si sono svolte in questi anni. Benissimo, ci torniamo allora su questi aspetti tra poco. Saluto anche Nicola Forte, consulente tributario, esperto del Sole 24 Ore su questi temi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Deborah, buongiorno radioascoltatori, un caro saluto anche a Marco Bellinazzo. Allora, oltre naturalmente al numero verde per intervenire in diretta, gli ascoltatori ci possono scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, dove già stamattina ci è arrivata una mail di un ascoltatore che si chiama Luca, che lavora in Svizzera e vuole capire appunto come comportarsi con lo stipendio che prende, che viene accreditato su una banca svizzera, ma che lui mensilmente porta questa cifra appunto in Italia. Italia, perché naturalmente vive qua, ma la banca gli sta sollevando qualche problema. Vorrei capire se anche questi casi, alla luce del nuovo redditometro, possono rappresentare appunto un problema e una questione potenzialmente da giustificare al fisco. Detto tutto questo, che cosa facciamo? Raccontiamo come va la borsa oggi. Borse fiacche, piatte, chiamiamole come vogliamo, in attesa del dato sulla disoccupazione americana. Ieri sono andate bene e le appunto piazze del vecchio continente, incoraggiate anche dal mantenimento dei tassi di interesse fermi nell'eurozona da parte del presidente, da parte della Banca Centrale Europea e quindi da parte di Mario Draghi, il numero uno della BCE. A Milano oggi acquisti molto forti su Enel, più 4,73%, e su Enel Green Power, più 1,65%. Il gruppo da qualche giorno è al centro di molti report positivi da parte soprattutto di broker esteri. Stamattina è arrivato quello di UBS che ha alzato appunto il giudizio sulla società, il target price, il prezzo obiettivo, e quindi appunto il titolo ha ritrovato di nuovo il favore del mercato. Bene, Campari più 1,32, STM più 1,18, Buzzi Unici e mi rialzo di un punto. Chi scende invece Mediaset meno 1,61, Telecom perde qualche colpo dopo i forti rialzi degli ultimi giorni, perde 1,5 con Pirelli, Autogrill meno 1,37. Lo spread fra BTP e Bund è ritornato sopra i 251 punti base, sempre perché naturalmente un po' di tensione c'è sul fronte obbligazionario, anche con questi chiari di luna politici, probabilmente ne dovremo parlare ancora a lungo. Adesso il tema di oggi, redditometro in arrivo, le prime lettere. Abbiamo, come avete capito, evidentemente qualche problema con la scheda, ma non importa, appunto, anzi ve la leggo io, perché è stata molto carina appunto anche l'idea che ha avuto il nostro Marco Lombardo nello scriverla. E contribuente, c'è posta per te, richiamando una nota trasmissione di cui si parla anche, qualche volta anche di storie d'amore che non vanno appunto tanto bene, e probabilmente, che ne so, magari il fisco vorrà intraprendere anche nuove strade per chiamare a rapporto quei contribuenti che negli anni passati non si sono comportati molto correttamente. Allora riprendiamo un po' i termini di questa operazione. Marco Bellinazzo, ritorno da te, poi andiamo al nostro consulente tributario. Intanto, l'anno all'esame del fisco è il 2009. Perché si è cominciato proprio da questo periodo, intanto? Per questa cattivissima abitudine del legislatore che fissa le norme in un anno e le fa valere anche per gli anni precedenti, anni in cui magari non c'era la possibilità di documentare determinate spese, le regole erano diverse. Facciamo l'esempio più evidente, che è quello dell'uso del contante. Ecco, oggi c'è un limite che è variato negli anni, ma siamo arrivati a un punto in cui per gli acquisti sopra i 1000 euro non si può usare il contante. Ebbene, nel 2009, cioè l'anno di riferimento, si poteva pagare in contanto acquisti fino a 12.500 euro, quindi acquisti insomma di un certo peso. Di conseguenza non c'era in molti casi la possibilità di avere traccia scritta di queste, di queste spese, di questi movimenti, e si potrebbero creare situazioni di imbarazzo per chi dovesse essere chiamato appunto a spiegare come ha pagato determinate spese che magari risultano al fisco, e da questo punto di vista ci auguriamo che, come ha promesso lo stesso direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera nei mesi scorsi, ci sia tolleranza da parte dei funzionari e anche la disponibilità a capire le ragioni di chi si trova in oggettive difficoltà e non per colpa sua. Certo. Anna da Verona, comincio subito a leggervi appunto le considerazioni degli ascoltatori, che su questo tema sono sempre molto interessanti, per non dire pittoreschi. A cosa serve, osserva l'ascoltatrice di Verona, tenere fatture e scontrini, come abbiamo suggerito qualche minuto fa? Se l'agenzia mi chiede informazioni su una spesa che ho veramente fatto, vuol dire che già la conosce perché è tracciata. Se mi attribuisce una spesa che non ho fatto, ovviamente non posso avere nessuna fattura. Allora, Nicola Forte, vengo a lei, gli chiedo un commento su quanto sostiene la nostra ascoltatrice, e un altro ci chiede ancora: le lettere arrivano per raccomandata, questa prima richiesta di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate? Chiaramente seguirà tutte le strade formali del caso, Nicola Forte. Certamente. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, sì, si è largamente diffusa tra gli utenti, i contribuenti, la preoccupazione di dover conservare ogni documentazione, no? Quindi tutti gli scontri, ma in realtà non è così. Bisogna fare attenzione a conservare documentazione soprattutto utile alla causa, al contraddittorio. Per esempio, è utile conservare la copia di una contabile bancaria qualora io abbia trasferito del denaro a favore di un congiunto, perché io in realtà devo dimostrare, non è tanto un problema di spesa, ma devo dimostrare di avere capacità di spesa, quindi di avere o un un reddito che legittimamente non ho tassato, una successione dove, che giustifica la provenienza di una somma di denaro. Quindi diciamo che l'ascoltatrice forte, mi scusi se la interrompo, deve preoccuparsi di dimostrare come ha finanziato questa spesa, esatto. No? Le modalità con cui, non la fattura perché, non lo so, ha comprato magari tutto l'arredamento nuovo della casa in quel momento, ha speso 30.000 euro e quindi è inutile che mi dia la fattura delle mobiliere, mi interessa capire appunto se sul conto corrente non c'era una capienza adeguata per quella spesa, come ha finanziato questa operazione. Certo, anche perché se non ha speso non avrà alcuna fattura, quindi sotto questo profilo assolutamente corretta la ricostruzione. Per quanto riguarda invece il secondo quesito, diciamo che avendo dei termini ben precisi entro cui poi il contribuente si deve presentare, sicuramente la richiesta, la convocazione, perché il fisco deve convocare per richiedere chiarimenti al contribuente, la convocazione obbligatoria, arriverà questa convocazione con tutte le forme di rito, quindi non una semplice certo. lettera, anche perché a fronte della mancata presentazione scattano delle conseguenze, quindi sotto questo profilo sicuramente il fisco sarà rigoroso sotto il profilo formale. Allora, chi sono questi 35.000 primi contribuenti appunto che saranno chiamati a giustificare il loro operato del 2009 e soprattutto ci sono anche delle scadenze, Marco Bellinazzo, relative alla conclusione delle operazioni appunto di accertamento? Sì, di fatto sono state programmate per il 2013, quindi dovrebbero concludersi tutte queste procedure che possono vertere di fatto su un solo colloquio iniziale quando il fisco ritiene giustificate dal contribuente quegli scostamenti, altrimenti c'è il vero e proprio accertamento con adesione che di fatto dovrebbe portare poi a concludere questi controlli entro la fine dell'anno. Queste persone sono quelle che nel 2009 diciamo hanno fatto tutta una serie di spese che il fisco già conosce e che hanno tutta una serie di beni per i quali si suppone che siano state fatte determinate spese, cioè se hai una automobile si suppone che tu abbia fatto determinate spese per la manutenzione, se hai fatto determinati investimenti devi dimostrare come li hai sostenuti. Ecco, la cosa centrale, il momento centrale di questo primo colloquio sarà l'esibizione della documentazione bancaria. Ecco, noi continuiamo ad insistere sulla questione del colloquio, ma non è che si deve andare dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate che ci interpella senza niente, quantomeno abbiamo il buon senso di portarci una prima scorta di documenti. Sarebbe un errore enorme, ecco. Perché ecco, il fisco conosce e imputa in questa prima fase tutta una serie di spese che sono certificate dall'anagrafe dei conti. Le famose spese Istat, le medie Istat sui beni alimentari, sui beni di uso corrente, l'abbigliamento, per fare un altro esempio, non saranno imputate in questa prima fase, ma successivamente se non si convincerà il funzionario. Per il momento ci dicono, hai speso per noi circa 100.000 euro, ne hai dichiarati per quell'anno, per il 2009-20, mancano all'appello 80.000 euro. Come hai fatto a sostenere queste spese? Certo, ripetiamo, se hai guadagnato quell'anno solo 20.000 euro, a quel punto, se io, visto che il fisco in questo momento non può conoscere questi dati, se non aprendo un'indagine finanziaria, ma lì ecco, siamo su un altro versante. Perché per esempio se questa spesa che tu sostieni fosse stata finanziata da una vendita di una casa, il fisco non ha già questa informazione? Il fisco in teoria sa che tu hai venduto quella casa, devi tu dimostrare nel momento in cui vai al colloquio, ripeto, con i saldi iniziali e finali, che in quell'anno avevi magari all'inizio 20.000 euro sul tuo conto corrente, hai venduto quella casa e a quel punto il saldo finale, mettiamo, sarà di 300.000 e quindi hai potuto finanziare quei 60.000 euro di spesa che non risulterebbero congrui col tuo reddito di 20.000 euro di quell'anno. Insomma, se hai la documentazione bancaria, riesci a dimostrare che con i tuoi risparmi hai sostenuto le spese di quell'anno, il tutto dovrebbe chiudersi con questa prima chiacchierata informale certo. con il funzionario. Andiamo adesso ai nostri ascoltatori, alle situazioni nelle quali si trovano, perché qualcuno teme di poter essere potenzialmente un soggetto passibile appunto di verifica, come quella di cui stiamo parlando questa mattina. Però mi volevo togliere un'altra curiosità prima di sentire Lorenzo, Massimo e Paolo pronti ad intervenire. Con Nicola Forte, che è un consulente tributario, mi chiedo se già qualche cliente, ovviamente rispettando tutti tutti i temi della privacy possibili ed immaginabili nella risposta, lei è già venuto appunto a come dire, esprimere la propria preoccupazione, nel senso se c'è già qualche posizione del 2009 che lei conosce direttamente che potrebbe essere, come dire, il potenziale destinatario di una delle missive pronte a partire, delle quali parliamo stamattina. Chiaramente c'è una preoccupazione diffusa, perché giornali e televisioni hanno dato ampio spazio a questo strumento. Anche in termini di terrorismo, come ci osserva qualche ascoltatore che continua a non accettare le modalità con cui trattiamo l'argomento. Va bene. No, però poi, ecco, spiegando proprio le modalità di funzionamento, il fatto che sarà uno strumento che non opererà automaticamente, c'è un contraddittorio obbligatorio, c'è la possibilità di dimostrare, anzi il sistema dovrebbe catturare in automatico il fatto che io ho disinvestito quindi di fatto acquisito capacità di spesa. Ecco, quando si spiegano sostanzialmente queste preoccupazioni, diciamo, gli interlocutori si tranquillizzano a sufficienza. Peraltro, diciamo, la preoccupazione maggiore, ecco, viene espressa proprio sul fatto che, essendo lo strumento, come spiegava Marco Bellinazzo, applicabile dal 2009 retroattivamente, parliamo del nuovo redditometro, è chiaro che io potrei non aver conservato in maniera eccessivamente scrupolosa la documentazione, e sappiamo le difficoltà che si possono avere, certo, nel reperire documentazione bancaria però, pregressa, rivolgendomi agli istituti di credito. Esatto, però lei ha fatto un'osservazione giusta: documentazione bancaria, teoricamente, comunque, anche se qualche volta è difficile, la banca ci dovrebbe aiutare appunto a recuperarla. Non è che stiamo parlando di microscopici scontrini che oggettivamente nessuno conserva, per cui è documentazione che teoricamente potrebbe essere recuperata non troppo difficilmente. Forte, certo. Senta, le faccio sentire un paio di ascoltatori, poi andiamo alla nostra prima pausa. Allora, li sento e poi rispondiamo magari tutti insieme nella seconda parte del programma. Massimo da Venezia, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Parlo per quanto riguarda la mia situazione, sono purtroppo disoccupato dal 2009 e riesco a, diciamo, arrivare a fine mese grazie a un affitto. E faccio fronte, per la differenza tra l'affitto come entrata, a alcuni redditi tassati alla fonte. Tutta la gestione delle mie uscite viene, diciamo, documentata tramite Bancomat, quindi tutto regolare. Però mi sorge il dubbio che se percepisco 10.000 euro di affitto e ho uscite per la mia famiglia per 22-23.000 euro, il gap comincia a essere consistente. Mi sorge il dubbio che vengano a si sentono, si legge nei giornali che quando entra l'Agenzia delle Entrate o Equitalia qualche tremore ti viene, quindi mi viene il dubbio se posso essere un soggetto di quelli che potrebbero essere appunto chiamati a rispondere delle spese che sostiene, appunto perché non giustificate dalle entrate reddituali. Io non sono in difficoltà a dire che qualche risparmio ce l'ho, appunto. Quindi, però, sa come tante volte anche il tenore di vita, Massimo, se lei con questa dichiarazione dei redditi abbastanza contenuta che ha appunto comprasse dal 2009 in avanti auto di grossa cilindrata continuamente, allora magari qualche perplessità potrebbe venire. Adesso le rispondiamo, però un attimo ci metto insieme anche Lorenzo da Pescara, così animiamo ancora di più il nostro programma. Lorenzo, buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno. Senta, io ho acquistato una vettura da 40.000 euro con una vettura data indietro e uno sconto, e praticamente il finanziamento era di 32, sì, finanziato per 48 rate. Volevo sapere se venivo, diciamo, ecco, indicato come una spesa di 32.000 euro, certo, o una rata di 500 o 600 euro che magari non potrei sostenere. Eccoci ritrovati in diretta, oggi parliamo di un tema che vi indispettisce sempre di più, e questo lo riscontriamo anche oggi dai messaggi e dalle telefonate che ci stanno arrivando. Ma le telefonate sono un po' più tranquille, nel senso che ci sono proprio delle domande molto serene da parte dei nostri amici che ci seguono da casa, che ci chiedono appunto come devono comportarsi relativamente a determinate situazioni. I messaggi, essendo anonimi come al solito, sono un po' più piccati. Il nuovo redditometro, oggi il Sole 24 Ore pubblica le linee guida per gestire capire i questionari che l'Agenzia delle Entrate invierà nelle prossime settimane a una platea di 35.000-40.000 contribuenti, appunto, considerati a maggior rischio. Come funzionerà questo primo colloquio, appunto, che l'Agenzia delle Entrate avrà con i contribuenti al centro di questo controllo? E poi, se l'Agenzia delle Entrate non si riterrà soddisfatta delle giustificazioni fornite dai contribuenti, cosa succederà dopo? Stiamo cercando di capirlo stamattina. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande. Rispondiamo ai due ascoltatori che abbiamo ascoltato in precedenza. Il primo, Massimo, disoccupato dal 2009, da quel momento sostiene sé e la sua famiglia con un affitto che percepisce mensilmente e altri redditi tassati alla fonte, probabilmente saranno degli investimenti. Marco Bellinazzo, lui però dice, insomma, è un rapporto un po' sbilanciato quello che è la massa delle uscite per la mia famiglia e quelle che invece sono le entrate. Posso essere passibile a punto di verifica? Si parlava di 10.000 euro di entrate e 20-22.000 di uscite, per cui si è ben oltre la soglia del 20%, tolleranza, diciamo, di tolleranza. Del 20%. Però c'è anche una soglia di tolleranza numerica che è stata indicata dall'Agenzia delle Entrate in circa 12.000 euro annui, e soprattutto c'è la possibilità, portando documentazione relativa a questi strumenti finanziari, a botta, CCT, che hanno una ritenuta secca, insomma sono tassati alla fonte, mm-hmm. quindi non vanno in dichiarazione, ma si può dimostrare, appunto, di essersi finanziati con questi strumenti, e di conseguenza nel caso specifico non credo ci siano problemi. Andiamo invece all'altro tema che ha posto il secondo ascoltatore, Lorenzo, perché lo stanno sollevando anche altri amici che ci seguono da casa al 349-238-6666. Nicola Forte, la famosa spesa effettuata a rate. Allora, nel caso dell'ascoltatore Lorenzo, lui dice: io ho comprato un'auto che vale 40.000 euro, poi dando indietro quella vecchia e attraverso uno sconto del concessionario, alla fine ho spuntato questo acquisto a 32.000 euro, che comunque io pago a rate, ma teoricamente il reddito annuale che l'ascoltatore appunto percepisce non giustificherebbe in un anno una spesa così importante. Però lui dice: proprio perché non me la posso permettere, la pago a rate, ma il fisco mi chiederà ragione anche di questa modalità? Eh sì, ma limitatamente alle rate pagate, quindi se il primo anno ha pagato rate per un importo complessivo di 6.000 euro, io dovrò giustificare una capacità di spesa di 6.000 euro. Però se lui ha una capacità, diciamo, reddituale più alta, lo chiama il fisco perché sta pagando queste rate, no? No, assolutamente. Torniamo all'esempio, 6.000 euro di rate l'anno, ipotizziamo un reddito di 25.000 euro, ipotizziamo sempre per semplicità queste uniche due voci, con il suo reddito dichiarato riuscirà chiaramente a giustificare la sua capacità di spesa di 6.000 euro. Quindi non vale 32.000. Non vale il valore dell'acquisto fatto in quel momento, vale quello che hai sborsato in quel periodo. Assolutamente, ecco. Chiaramente poi dobbiamo considerare che l'autovettura è un elemento, un costo certo, ancorché acquistato attraverso un pagamento rateale, e quindi poi entrerà in ballo un meccanismo in grado anche di quantificare le spese di consumo, quindi i carburanti e gli oneri di manutenzione. Quindi sostanzialmente si considererà ammontare pagato per le rate, gli oneri di manutenzione, le spese di carburanti, e poi chiaramente dovrà essere valutata tutta la posizione complessiva del contribuente, anche se lui è in affitto, altre spese, ma sotto questo profilo, ripeto, per l'autovettura contano solo queste voci. Diciamo che probabilmente dovrà esserci altro che attira l'attenzione del fisco, sì, non l'acquisto di un'auto all'interno di un nucleo familiare. Marco Bellinazzo. In questi primi due anni, 2009-2010, diciamo che gli scostamenti che faranno scattare l'allarme del fisco andranno ben oltre un rapporto del 20%. Mm-hmm. Ora non sono state date indicazioni ufficiali dall'Agenzia delle Entrate, ma è chiaro che secondo me uno scostamento rilevante sarà uno scostamento superiore al 50%, cioè si tenderà a colpire i casi di evasione spudorata, chi è ricco ma tenta di fare il povero, certo. Ad esempio anche per lucrare sulle prestazioni sociali. Su questo Befera è stato molto chiaro, poi è anche vero appunto che in questi anni il fisco ci ha insegnato che qualche volta ha colpito un po' la cieca. Infatti noi non facciamo terrorismo nei confronti dei contribuenti, però è chiaro che in una massa di 40.000 controlli ci potrà essere anche chi ha semplicemente magari acquistato la casa con l'aiuto dei genitori. Ecco. Grazie che hai sollevato la questione perché ce la stanno ponendo inevitabilmente alcuni ascoltatori. Volevo leggervi il messaggio di Serena che ci dice: proprio nel 2009 sono stata aiutata dai miei genitori a sostenere delle spese onerose in quel periodo. Il mio reddito era molto esiguo, evidentemente era in difficoltà. Sarò contattata dal fisco perché ho paura di dover coinvolgere i miei genitori e mi spiacerebbe che a causa mia avessero dei fastidi. Un altro caso è quello di un altro ascoltatore che nel 2009 ha chiuso il residuo del mutuo, circa 27.000 euro, però se li è fatti prestare questi soldi dai suoi genitori a tasso zero. Ne ha fatto anche bene, dico io. Questo può essere un parametro per ulteriori controlli della finanza, dicelo io, dico dell'amministrazione fiscale. Nicola Forte, allora, se i genitori questi soldi ce li avevano... Certamente, questo è un tema molto delicato. Innanzitutto, partendo dall'ultimo quesito, siamo ben oltre la soglia dei 12.500 euro all'epoca applicabile, quindi il passaggio, la somma di denaro deve essere stata trasferita con uno strumento tracciato. È esatto, prima questione, che... speriamo che appunto questi genitori non abbiano dato questi 27.000 euro in una valigetta nera di quelle che vediamo nei film. Certo, è ovvio che a questo punto però l'attenzione si può spostare, soprattutto per il trasferimento di somme di importo maggiore, auguriamoci, soprattutto in questa prima fase, nei confronti dei soggetti, cioè quindi i genitori che hanno materialmente erogato la somma, perché a questo punto il fisco potrebbe verificare la loro posizione, potrebbero loro aver sostenuto una serie di spese e tra queste andrebbe computato anche l'importo erogato al figlio di 27.000 euro e chiedere conto appunto della loro capacità di spesa in funzione dei redditi dichiarati. Ma mi scusi Forte, attenzione. In questo caso l'Agenzia delle Entrate che interpella per primo? Il figlio che ha chiuso questo mutuo, ha fatto un'operazione finanziaria importante non giustificata dal reddito o i genitori? No, assolutamente il figlio nella fase, il primo contraddittorio spiegherà che ha ricevuto questa somma dai genitori, quindi la posizione del figlio potrebbe archiviarsi, chiudersi, ma potrebbe verificarsi, non è detto, non c'è un meccanismo automatico, che tutto ciò, il problema e la verifica potrebbe estendersi appunto, e quindi ci potrebbe essere una missiva, o meglio una convocazione nei confronti dei genitori che a loro volta dovranno giustificare la loro posizione. Il primo controllo appunto è nei confronti del figlio. Allora andiamo a Luigi da Monza. Buongiorno Luigi, un altro ascoltatore che ha fatto delle spese con le modalità più o meno simili a quelle che abbiamo indicato poco fa. Luigi. Sì, buongiorno a voi gli ospiti. Senta, la questione qual era? Noi abbiamo fatto dei lavori in casa, tipo ascensore e altre cose. Chiaramente la nostra capacità di reddito non ci permetteva di poter affrontare questa spesa e i miei suoceri, che hanno due case in affitto, pagano con cedolare secca, praticamente ci hanno dato dei contanti. Certo. E tuttora ci aiutano mensilmente, anche perché mia moglie è in cassa integrazione. E per fortuna, dico io Luigi, è che ci sono, c'è sempre questa che io definisco questa rete di protezione sociale, perché se non ci fossero i nostri vecchietti... Welfare familiare. Ecco, appunto. Welfare familiare. Infatti. E dunque i miei suoceri continuano costantemente a darci questo flusso di denaro che loro percepiscono a questi affitti pagati con cedolare secca. Adesso il mio problema qual è? Un domani, se l'Agenzia delle Entrate mi dovesse convocare per giustificare queste spese che superano sicuramente le mie entrate... come faccio a dimostrare? Poi devo lasciare una traccia che mio suocero mi dà questi soldi o basta soltanto dichiarare che allora, è una donazione o devo pagarci le certo. tasse perché è sempre un reddito? Ecco, infatti appunto. Luigi, allora io intanto vorrei capire, qua stiamo parlando di un ordine di spesa, faccio un'ipotesi perché non voglio entrare all'interno della sua situazione familiare, mettendo che si tratti, Nicola Forte, i 200 euro al mese che questi anziani appunto aiutano, con cui aiutano Luigi, ma siamo appunto a questo livello. Noi viviamo in un paese in cui queste situazioni sono all'ordine nel giorno. Ci mancherebbe pure che il fisco metta il naso all'interno di situazioni di difficoltà che vengono, come dire, superate e aiutate proprio grazie al sostegno della famiglia, nel caso di Luigi come nel caso penso di 30 milioni di italiani. Sì, no, ma le somme ipotizzate sono di modesta entità e quindi diamo tranquillità all'ascoltatore. Poi questo è anche un passaggio che l'Agenzia delle Entrate ha affrontato nella circolare, affermando espressamente che l'attenzione del fisco non si concentrerà su quelle situazioni cosiddette di marginalità economica. Appunto, come ricordava Marco Bellinazzo, l'attenzione del fisco si concentrerà soprattutto nei confronti di quelle posizioni, su quelle posizioni per le quali è possibile, è fortemente probabile che il fisco vada a segno, non per queste situazioni, ripeto, marginali che perlomeno nella fase iniziale non dovrebbero essere monitorate. Si stringe il cuore a sentire che Luigi si preoccupa del fatto che questo sostegno periodico che suo suocero gli dà gli venga addirittura tassato, perché qua siamo veramente nell'ordine, Marco, dell'esasperazione anche comprensibile. Che questo caso, diciamo, dovrebbe essere assolutamente al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo. È chiaro però che in generale tenere traccia di eventuali sostegni più consistenti che arrivino da familiari o amici è fondamentale. È fondamentale tra l'altro fino a un certo punto, perché il problema è che per il 2009 e il 2010 non ci sono, diciamo, i dati relativi ai movimenti bancari, quindi a quanto si riceve o meno attraverso strumenti tracciabili e bonifici. Dal 2011 invece l'Agenzia delle Entrate disporrà nell'anagrafe dei conti anche di questi dati, perché ricordiamo dal prossimo 31 ottobre banche intermediari dovranno comunicare periodicamente, proprio a partire dall'anno 2011, tutti i dati dei nostri conti correnti relativi, diciamo, anche alle movimentazioni, quindi non solo al saldo iniziale e al finale. Quindi si presume e si spera che nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate avrà a disposizione tutta questa mole di informazione, diciamo, i controlli saranno sempre più mirati e colpiranno effettivamente gli evasori, e che non hanno chi proprio nessuna giustificazione, assolutamente è fedele al fisco, magari può aver compiuto degli errori, non aver documentato certe spese, ma sicuramente non è un evasore. Stefano ci scrive: se una famiglia nel 2009 non ha avuto redditi da lavoro ma ha vissuto di risparmi, potrebbe ricevere la cartolina come quella che ricevevano i militari, che ci ha fatto tanto sorridere questa immagine. Stefano, io non sono Marco Bellinazzo né Nicola Forte, mi sento di poter dire che se lei in quell'anno ha vissuto in maniera tranquilla e onesta e non si è comprato 3 case, 2 macchine e quant'altro, nessuno le verrà a chiedere niente, nessuna cartolina arriverà nella sua cassetta della posta. Suggerimenti per chi è in viaggio, poi c'è Paolo da Vicenza e poi andiamo all'avvocato Dalila Loiacono dello sportello Movimento Difesa del Cittadino SS Equitalia per raccontarvi un'altra notizia interessante. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, adesso sentiamo Paolo da Vicenza e Massimo da Bologna. Prima però volevo raccontarvi di un altro tema che vi abbiamo anticipato all'inizio del programma. Parliamo di cartelle esattoriali nulle se prive di motivazione. Detta così sembra una banalità, eppure la precisazione è arrivata da una sentenza della Corte di Cassazione qualche giorno fa, e subito le associazioni dei consumatori si sono affrettate a voler mettere al corrente i propri associati di questa novità. L'avvocato dello sportello Movimento Difesa del Cittadino, Dalila Loiacono, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Responsabile dello sportello SOS Equitalia, perché avete dato così tanta importanza appunto a questa sentenza della Cassazione? Allora, innanzitutto ci pare fondamentale avvisare i cittadini, anche perché molto spesso, ecco, almeno lo sportello da noi, appaiono queste cartelle che sono assolutamente prive di motivazioni. Mi spiego, arriva comunque una cartella, c'è questa frase criptica con scritto omesso, carente, versamento, che non si capisce a cosa si riferisce, perché naturalmente quelli che sono poi motivi di impugnazione o comunque di contestazione variano, perché bisogna capire se il contribuente ha ricevuto, per esempio, è un accertamento rettifica, se è un omesso versamento, se è un carente versamento, gli interessi che sono stati applicati. Molto spesso arrivano queste cartelle che naturalmente la gente non sa niente, perché se è un accertamento in rettifica, faccio un esempio di quelli insomma piuttosto lampanti, e magari no, il commercialista o chi per lui ha sbagliato nella dichiarazione, non è stato magari documentato o magari in qualche maniera allegato o qualche documentazione che era necessaria, ci troviamo con queste cartelle che sono assolutamente, insomma, con importi strabilianti, se vogliamo dire dei soldoni, e il contribuente non sa da cosa si riferiscono in qualche maniera. Mi chiedo come siamo dovuti arrivare al 2013 con una sentenza della Cassazione che chiedesse in maniera così esplicita appunto che il fisco, quando pretende queste somme, che magari le pretende anche giustamente, appunto non debba giustificarle e chiamarle con nome e cognome. Esatto, come ci siamo arrivati a questa sentenza, tra l'altro, avvocato? C'è stato qualche contribuente che si è arrabbiato? Ci sono stati diversi contribuenti, anche perché la problematica è che queste cartelle erano numerosissime. Il 90% di queste cartelle arrivavano comunque prive di motivazioni. Quindi il contribuente si trovava, tra l'altro, in uno stretto lasso di tempo, perché perché comunque ci sono 60 giorni per contestarle, con una cartella che era assolutamente criptica e tutte le problematiche derivavano dalla circostanza che comunque doveva recarsi presso l'Agenzia delle Entrate, in qualche maniera chiedere argomentazioni. Come sappiamo, l'Agenzia delle Entrate non ci fornisce tutta la documentazione, molto spesso si deve fare un accesso agli atti che comunque richiede una tempistica almeno di 30 giorni. E certo, spese anche per... Naturalmente il contribuente non era in grado di affrontare la propria difesa, perché naturalmente un conto se c'è un carente versamento, un conto se è un'omessa, un conto addirittura se una rettifica, cambia completamente quello che è il panorama giuridico, quelle che sono le conseguenze. Certo. Avvocato, grazie per essere stata con noi, per averci spiegato questa novità, perché appunto il Movimento Difesa del Cittadino sul suo sito online appunto l'ha sollevato con grande forza. Vi ricordo che vi potete rivolgere per i vostri problemi su questo tema allo sportello SOS Equitalia, che è proprio gestito dall'avvocato Lo Iacono. Ritorniamo invece al redditometro, a Paolo da Vicenza, che è già soggetto appunto di un controllo con gli strumenti del vecchio redditometro. Però Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, mi chiamo Paolo e allora io l'ho chiamata perché ho già avuto un controllo del redditometro. Sì. Siccome sono vissuto tanti anni in Francia, 25-30 anni, quindi eravamo abituati alla come quando siamo tornati in Italia, e quindi abbiamo mantenuto tutte le ricevute, fatture, eccetera, tutte le giustificative possibili, sugli stati conto scritto quello che era. Dopo aver presentato tutta la documentazione, siamo stati via quasi 27 anni. Noi avevamo comprato una casa qui in Italia. E adesso, dopo aver dato tutta la documentazione, risulta normale che tutto è retto, però... avendo una casa molto grande non giustifica perché ho troppe spese, quando io non ho spese, cioè tutto documentato. Cioè loro parlano... Senta Paolo, no, esatto, ma che cosa le contesta esattamente il fisco in questo caso? Cioè che lei non riuscirebbe teoricamente a mantenere questa casa di... Quando è troppo grande non riesco a mantenerla, e quindi se la mantengo c'è qualcos'altro. Io invece non ho né uno e né l'altro, la casa me la mantengo lei io. Ha già ricostruito quella che è stata la sua vita passata in Francia con il fisco. Aspetti lì, sentiamo un po' se Nicola Forte ha bisogno di qualche altra informazione da parte sua. Nicola. Dunque, allora provo a rispondere anche se la comunicazione era abbastanza disturbata. Sì. Mi sembra di aver compreso che l'ascoltatore ha subito un controllo sul vecchio redditometro fondato sostanzialmente sulle dimensioni o sulla sua capacità di spesa in relazione a un immobile di pregio, sembra di aver compreso. Una casa di grandi proprietà non ha detto la parola pregio, Paolo, però ammettendo che non lo sia. Benissimo. Ora c'è da dire che il vecchio redditometro era uno strumento molto più rozzo rispetto a quest'ultimo, che è maggiormente in grado di misurare la capacità di spesa. Qui purtroppo si giocherà una partita fondamentale. Il fisco ha già detto che il nuovo strumento, il nuovo redditometro, anche se molto più puntuale, preciso, in grado di accertare la reale capacità di spesa, non potrà essere applicato agli anni passati. Invece sostanzialmente, cioè quindi negli anni in cui si applicava il vecchio redditometro, strumento molto più rozzo che andava sostanzialmente con l'accetta, l'orientamento della giurisprudenza, dei giudici invece, che mano a mano si va formando, invece è in senso inverso. E quindi voglio dire, adesso non voglio tranquillizzare il nostro ascoltatore e quindi indurlo quasi a fare da apripista, però è una strada su cui dobbiamo ragionare, pensare uno strumento molto più evoluto, attento, che anche il fisco riconosce funzionare molto meglio, per quale ragione non applicarlo al passato? E questa è un po' la partita da giocare. Allora, adesso, mentre ci sono appunto molti ascoltatori che spesso quando trattiamo questi argomenti ce ne dicono di tutti i colori perché sostengono che siamo compiacenti con queste modalità fiscali di accertamento, io invece mi arrabbio molto rispetto a quello che ci scrive Roberto, che ci racconta che la sua dentista si vanta di acquistare borse da 3.000 euro andando da commercianti compiacenti, fa due movimenti da 900 euro a distanza di un'ora e dopo l'aperitivo con altrettanti soldi in contanti. Nel frattempo non mi emette fattura. Allora, ecco, di fronte a queste situazioni io mi arrabbio, perché sono le classiche situazioni di fronte alle quali noi ci possiamo difendere. Prima cosa, sceglierei un'altra dentista più corretta. La fattura la pretenderei, perché quantomeno quella si può scaricare dalla dichiarazione dei redditi. Però Roberto, a questo punto un altro compiacente è lei, perché con questa fattura non emessa lei avrà un risparmio sulla cura medica evidentemente notevole. Insomma, ma Marco, quante volte dobbiamo dire queste cose? Però la Guardia di Finanza, una visita da questa signora potrebbe farla, c'è il numero, c'è il numero appunto... Si può segnalare volendo... Il 117, non mi ricordo quale. Di fronte sia, 117, a situazioni così plateali, bisogna reagire, bisogna fare un processo culturale, quella che spesso viene definita tax compliance come un'esigenza dell'Agenzia delle Entrate di favorire la fedeltà fiscale dovrebbe essere anche un'esigenza però sentita da tutti noi contribuenti onesti di fronte a situazioni così palesi, quindi pretendere che ci sia, al di là delle ipotesi di contrasto di interessi o di cui tanto si parla spesso a vanvera, ma esigendo appunto la regolarità fiscale da chi ci appunto fornisce determinati anche servizi. Perché mi dico, Roberto, ma lei non si indispettisce quando sente questi racconti da questa cretina che non mi viene in mente appunto che definirla diversamente? Osvaldo dalla provincia di Vicenza, non riesco a farlo intervenire perché stiamo chiudendo, ma lui dice: se ha risparmiato per anni e ora vuole spenderli tutti, cosa deve fare? Io dico che se li deve spendere tutti, se li deve godere Osvaldo, però insomma se fa delle operazioni impegnative finanziariamente si tenga tutta la documentazione in modo tale appunto, e anche la documentazione di questi risparmi, perché non ce l'avrà dentro il materasso, spero che ce l'abbia in qualche soggetto appunto accreditato pubblicamente. Grazie a Marco Bellinazzo per essere stati con noi. Il numero della Guardia di Finanza è il 117, ci voglio fare una puntata sul funzionamento e se funziona veramente in realtà questo sì, sportello. Sì, stanno arrivando molte segnalazioni. Ce la facciamo, Marco, una puntata su questo. Grazie a tutti, a domani.